Letture di Radio 24. Strumento utile e pericoloso al tempo stesso, WikiLeaks è riuscito a mettere in imbarazzo i governi occidentali. Ci si aspetta che ora faccia altrettanto con i paesi orientali, dove l'informazione è molto meno trasparente. WikiLeaks è una rivoluzione. Caotica, imperfetta, selvaggia, con qualche strabismo ideologico, così come è controverso il suo fondatore, Julian Assange. Sarebbe però un errore guardarla con troppo sospetto, fino a non vederla davvero. I quasi 400.000 file contengono notizie da valutare, perché il sistema WikiLeaks non è un'alternativa al giornalismo investigativo tradizionale, come sembra aggiungere Assange, ma certo può costituire una sponda. Così, assieme alle fonti classiche, il reporter si trova tra le mani un formidabile nuovo strumento, che permette di aprire armadi, di scrutare tra i segreti, di smascherare eventuali bugie, a patto di farlo con onestà professionale, perché è materiale grezzo e dunque va giudicato come tale. Non è la verità assoluta e completa, ma la fotografia di un momento, come è avvenuto nel caso dei brevi documenti riguardanti gli italiani in Iraq. E se le rivelazioni dovessero qualche volta rivelarsi conferme di quanto già scritto, non significa che lo scoop abbia meno valore. Ora l'attenzione destata con i diari di guerra spingerà altri a imitare WikiLeaks, offrendo informazioni sensibili. Dovremo abituarci e prepararci a queste soffiate online. La voglia di spaccare il muro del silenzio nasconde infatti delle insidie. Uno Stato, un apparato o un movimento eversivo possono distribuire qualche polpetta avvelenata. Informazioni che sembreranno genuine, in quanto grezze, e si riveleranno manipolate. WikiLeaks si para le spalle affidando in anticipo la massa di dati ad alcuni grandi quotidiani che eseguono le verifiche. Non sempre però sarà possibile procedere così. La velocità delle news nell'interazione, web, televisione, giornali, si moltiplicherà e una volta che i documenti finiranno sulla rete sarà impossibile ignorarli. In poche ore quel materiale avrà fatto comunque il giro del mondo, diffondendo verità e leggende. Un'ultima osservazione sulla rivoluzione democratica dell'informazione. WikiLeaks ha messo in imbarazzo i governi occidentali. Adesso ci aspettiamo che provi a fare lo stesso con i paesi meno trasparenti. Ci auguriamo che trovi come fonte un pasdaran in Iran, in grado di svelarci cosa ci sia negli archivi dei mullah, o un soldato dell'armata popolare cinese, o ancora un ufficiale birmano. Tre stati tra i più aggressivi nell'imporre la censura su internet e sulla stampa. Solo così la rivoluzione sarà completa. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Guido Olimpio, Documenti grezzi, non verità, la rivoluzione strabica di WikiLeaks, dal Corriere della Sera del 26 ottobre. Letture di Radio 24. Bloccata da anni per le proteste del comitato Notav e per l'immobilismo dei vari governi che si sono succeduti negli ultimi 4 anni, la linea ad alta velocità Torino-Lione ha già perso 9 milioni di finanziamenti tra quelli previsti dalla Commissione europea e rischia di perderne ancora se non arrivano segnali concreti. Diciamo la verità, che alla fine arrivasse l'out-out di Bruxelles c'era da aspettarselo. La Commissione europea è disposta a concederci 2 anni di proroga, dal 2013 al 2015, per ottenere i finanziamenti comunitari necessari a realizzare l'alta velocità Torino-Lione, in cambio di un segnale concreto che facciamo sul serio. E questo segnale non potrà che essere l'avvio dei lavori del cosiddetto tunnel esplorativo nella polveriera della Valsusa. In gioco ci sono 672 milioni di euro, di cui 9, secondo il Sole 24 Ore, sono già andati perduti. Comunque vada, siamo già fuori per una quarantina di milioni anche dalla scadenza del 2015. Inutile dire che se il cofinanziamento europeo, il quale rappresenta il 27% del fabbisogno previsto a carico dell'Italia per l'infrastruttura di collegamento con la Francia, venisse dirottato, come minaccia la Commissione, verso altre infrastrutture, su quell'opera si potrebbe mettere una pietra tombale. Qualcuno indubbiamente gioirà, ma per il Paese, comunque la si possa pensare, non sarà una buona notizia. Una storia penosa che dimostra purtroppo l'inadeguatezza attuale del nostro sistema nei confronti dei grandi progetti strategici, soprattutto quando si tratta di compiere scelte di interesse generale che possono entrare in rotta di collisione con interessi locali. È lì che si misura tutta l'incapacità della nostra classe politica, più concentrata su obiettivi di breve periodo in vista delle successive elezioni, invece che sul futuro del Paese. Non per nulla la vicenda della Torino-Lione si trascina senza soluzione di continuità fin dal 1992, anno del primo governo di Giuliano Amato. Un progetto vitale venne definito dal comitato promotore, allora presieduto da Sergio Pininfarina, oggi senatore a vita. Due anni dopo, giusto una settimana prima della caduta del governo di Silvio Berlusconi, i ministri dei trasporti italiano, Publio Fiori, e francese, Bernard Bousson, firmarono l'accordo che prevedeva la costruzione di un tunnel di 60 km sotto le Alpi. Obiettivo: togliere dalla strada 2,6 milioni di tir. Tre anni più tardi, nel 1997, la prima fase di studi tecnici era conclusa. Costo 60 miliardi di lire. Alla fine di gennaio del 2001, il presidente del Consiglio italiano, ancora una volta Giuliano Amato, e il presidente francese Jacques Chirac fissarono la data di entrata in esercizio della linea al 2015. Soltanto 10 mesi dopo, però, un nuovo vertice italo-francese anticipò la scadenza di 3 anni, al 2012. Il nostro ministro Pietro Lunardi evidentemente non sospettava che nulla avrebbe potuto, nemmeno la legge obiettivo. Senza poi considerare, al di là dei roboanti annunci berlusconiani, come di soldi in cassa per le grandi infrastrutture ce ne fossero davvero pochini. Ripercorrere la strada di quello che è accaduto da allora è doloroso. Fra i proclami della destra e i balbettii della sinistra, nessuno è stato capace per anni di gestire la situazione. Non lo è stato per ben 2 volte il governo Berlusconi e nemmeno il governo Prodi, nel quale coabitavano un ministro dell'ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, che definiva la Torino-Lione un danno ambientale e uno spreco economico, e un ministro dei trasporti, Alessandro Bianchi, che ammoniva: se resteremo fuori dalle reti internazionali, saremo destinati a restare fuori da un sistema globale per anni. Le reti internazionali, appunto. Senza la Torino-Lione, il mitico Corridoio 5, la linea transeuropea che dovrebbe unire Lisbona a Kiev, non potrà passare per l'Italia. Come senza il terzo valico dei Giovi sull'Appennino Ligure non sarà completo il Corridoio 24, progettato per collegare il Mare del Nord, Rotterdam, con il Mediterraneo, Genova, attraverso il tunnel del Gottardo. Per inciso, gli svizzeri hanno appena finito di scavare quella galleria di 57 chilometri, mentre noi i lavori per quel valico non li abbiamo ancora iniziati. La riunione del CIPE, che a metà ottobre doveva dare il via libera, è stata rinviata ancora una volta, e in questo caso i NOTAV non c'entrano nulla. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Sergio Rizzo, La penosa storia della Torino-Lione, dal Corriere della Sera del 25 ottobre. I pendolari italiani che viaggiano in treno sono costretti ogni giorno ad affrontare un calvario fatto di treni sovraffollati, ritardi cronici e treni soppressi. Il tutto quasi sempre senza rimborsi e senza una parola di scuse da parte di Trenitalia o delle varie società che gestiscono il trasporto pubblico a livello locale. Ma se un viaggiatore viene trovato senza biglietto, eccoli sfoderare tutta la loro arroganza nel pretendere il rispetto delle regole. Cosa direste a quel ragazzo di Belluno salito in corsa sull'ultimo treno della sera che, pur dovendo scendere alla prima stazione, non si nasconde italicamente in bagno, ma cerca il controllore per mettersi in regola e si vede comminare una multa di 116 volte superiore al costo del biglietto? Io gli direi: consolati, a un nostro lettore è andata peggio. In viaggio da Torino a Foggia viene derubato di tutto nel sonno. Va dal capotreno ottenendo ampie rassicurazioni, ma ad Ancona il personale cambia e un nuovo controllore gli chiede il biglietto. Il suo collega non le ha detto che ho subito un furto? No, non gliel'ha detto e c'è una multa salata da pagare. Ma il lettore non ha più il portafogli e così il funzionario si limita a consegnargli il verbale, invitandolo a scendere alla stazione successiva. Ormai immerso in un incubo kafkiano, il nostro scende e si precipita al commissariato. Documenti, prego. Non li ha, i documenti. Come può averli? Si è appena spiegato a lor signori che sul treno i ladri gli hanno portato via tutto. Il commissario scuote la testa. Lei per me potrebbe essere anche un terrorista. E lo denuncia a piede libero. La questione è la stessa da millenni. I casi della vita sono più variegati delle caselle di un regolamento. Ma ogni sistema di controllo si giustifica solo con la propria rigidità. Non potendo consentire ai suoi esecutori di usare il filtro flessibile del buonsenso, li mette di fronte a un'alternativa atroce: rispettare le norme così come sono, oppure eluderle, comportarsi da ottusi o da disonesti, mai da esseri umani. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Massimo Gramellini, dell'Ottusità, dalla Stampa del 27 ottobre.